Piazza 24, i gialli della storia. Pensava in divenire, pensava agli adulti, pensava agli uomini e alle donne che sarebbero stati. Maria Montessori ci dice che il bambino ha capacità di capire, di comprendere il mondo, di ordinare il mondo, di percepire il mondo che noi adulti totalmente ignoriamo. Il metodo Montessori ha formato le menti di molti di quelli che in questo momento rappresentano il mondo dell'innovazione e della creatività. Un metodo che ti permette di analizzare le sfide da affrontare e ti dà il senso di libertà indispensabile per vincerle. E tra quelli che hanno studiato col suo metodo ci sono Anna Frank, García Márquez, Mario Draghi. Ma dietro uno strumento didattico, educativo, dietro un metodo applicato in tutto il mondo che ha contribuito a formare le classi dirigenti in ogni campo, c'è la storia appassionante di una donna. Oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia, la storia di un'italiana che ha cambiato la pedagogia del XX secolo. Il principio è semplice, l'autoeducazione. Ma per la stessa Montessori la scoperta più sconvolgente e vedere i bambini di 3 anni che imparano a leggere e scrivere da soli. Ce ne parla la pedagogista Grazia Honegger Fresco. Faccio fare, ti faccio fare. No, i bambini fanno, non tu gli fai fare. E sempre con una attenzione da parte delle maestre sul come si fa una cosa fatta bene, no? Quindi movimenti lenti per far vedere, eccetera. Lei ha fabbricato i materiali in parte sulla base di quello che aveva scritto Ita, in parte sul lavoro di Seguin. Cioè, vuol dire che sono materiali avendo capito come funziona la mente del bambino e rispettando poi le differenze tra i bambini. Dobbiamo fare in modo che i bambini siano i protagonisti della loro crescita intellettuale così come lo sono della propria crescita fisica. Maria Montessori vede l'uomo in ogni bambino e si concentra sul processo di crescita, come spiega la storica Lucetta Scaraffia. Era un rovesciamento copernicano rispetto a un'educazione che invece vedeva il bambino come un contenitore vuoto da riempire di materie. Ciò che muove il bambino all'attività è un impulso interiore primitivo, quasi un vago senso di fame interna. Ed è la soddisfazione di questa fame che lo conduce a poco ad un complesso e ripetuto esercizio dell'intelligenza nel comparare, giudicare, decidere un atto, correggere un errore. Ma chi era Maria Montessori? Come nasce il suo metodo? La sua è un'esperienza avventurosa, piena di successi clamorosi e di dolorosi fallimenti, di contraddizioni e misteri, quasi che il personaggio volesse tenere nascosta la donna. La prima italiana a esercitare la professione di medico, la prima a comparire sulle banconote della zecca, la prima cui sia stato dedicato un cratere su Venere. Maria Montessori nasce nel 1870 in una famiglia benestante. La piccola cresce in un ambiente ricco di stimoli in cui lo spirito liberale convive con la fede religiosa. Maria, del resto, ama studiare e la famiglia l'appoggia, ancora Lucetta Scaraffia. È anche una delle prime a seguire prima un istituto tecnico, un'educazione che di solito non era considerata adatta a una donna. Dietro questa donna ci stava la grande ambizione di una madre. La madre Renilde era ambiziosissima per questa figlia, molto intelligente e bella. Suo padre aveva contatti con le reti mazziniane ed era sicuramente massone. Nel 1890 Maria Montessori si iscrive alla facoltà di fisica e matematica. 2 anni dopo, nel 92, sceglie di passare a medicina, ma sarà necessario l'intervento del ministro dell'istruzione Guido Baccelli, fino ad allora contrario all'ingresso delle donne in questa facoltà. Quindi sicuramente avrà suscitato un grande scalpore nella facoltà di medicina. Lei comunque li inseguiva questi primati, li voleva realizzare tutti questi primati, tutti i primati possibili voleva fare, è una donna, diciamo così, allevata per questo. Una donna emancipata e femminista, emancipazionista, che però sapeva distaccare di gran lunga le altre donne e lo voleva fare. La carriera di psichiatra è una carriera rigorosamente maschile, nel senso che chi si formava amava poi era destinato a lavorare nelle istituzioni manicomiali. Non mi risulta che nessuna donna lavorasse nelle istituzioni manicomiali per tutto l'Ottocento, prima parte del Novecento. Va detto, forse le prime a entrare sono durante il fascismo. Tutti mi guardano e mi seguono come se fossi una persona famosa. La mia celebrità deriva da questo fatto. Sembro delicata e piuttosto timida. Si sa che osservo i cadaveri e che li tocco, che sopporto il loro odore con indifferenza, che guardo i corpi nudi. Io, una ragazza sola tra tanti uomini, senza svenire. Nel 1893 vengono pubblicati tre testi sulla donna di tre importanti antropologi. La donna delinquente di Lombroso e Ferrero, un lungo articolo proprio di Sergi intitolato Se esistono donne di genio, e la sua risposta è no, non esistono donne di genio. Le donne possono essere madri di geni, ma per il principio di eredità imperfetta il genio femminile non si può sviluppare. Il terzo è Mantegazza, che scrive La fisiologia della donna. Ce ne parla Valeria Babbini, storica della scienza. Maria Montessori lavora in un ambito in cui gli scienziati di fine Ottocento si sono espressi sulla inferiorità femminile. Quindi da un lato è l'unica all'epoca capace di contrastare scientificamente questo tema della minore intelligenza, del cranio e del cervello più piccolo, e lo farà proprio nell'antropologia pedagogica del 1910 e in alcune conferenze pubbliche ancora più interessanti, quando scienza contro scienza parlerà di cattiva scienza dei suoi maestri con un coraggio straordinario, ma anche con un aggiornamento scientifico che le fa onore, perché c'era una letteratura francese, Manouvrier, l'antropologia a cui lei si collegava giustamente, che faceva vedere che naturalmente il cervello piccolo, più piccolo delle donne, era in proporzione alla massa complessiva del corpo, per cui calcoli alla mano, la Montessori ne concludeva che noi abbiamo un cervello più grande e più pesante di quello degli uomini, stando sullo stesso modello scientifico dei suoi maestri. Nel 1896 la laurea. Maria Montessori è la prima donna in Italia a esercitare la professione di medico e le viene affidato il tema dell'infanzia, allora non all'ordine del giorno, come conferma la pedagogista Honegger Fresco. E ha lavorato per 2 anni con i bambini che erano rinchiusi al manicomio di Roma, e lei l'ha scritto, è stato l'unico mio titolo in pedagogia e quell'esperienza lì. Nel 1899 la Montessori è a Parigi per un periodo di studio. È qui che scopre alcuni testi che per lei saranno fondamentali, in particolare le ricerche di Jean Itard, il medico che è riuscito a educare Victor, il ragazzo selvaggio ritrovato in un bosco e cresciuto senza mai aver incontrato nessun essere umano. E una volta tornata a Roma usa quel metodo con i bambini fenastenici. Ne parla il figlio Mario. Lei era assistente alla, come si chiama, cattedra psichiatrica di Roma, e assistente una volta al pranzo di questi bambini. E dopo che ebbero finito di mangiare, si precipitarono sotto questa tavola per raccogliere queste mollicche di pane e altre cose. Ma mia madre vide con grande sorpresa che questi bambini non mangiavano e invece cominciavano a manipolare queste mollicche di pane, e allora ebbe come un'intuizione che c'era qualche altra cosa lì dentro, che c'era un desiderio da questi bambini di poter fare qualche cosa. Lei mi disse una volta una cosa che mi commosse molto, dice: io avevo visto una fiammella di intelligenza in questi bambini. Maria Montessori lavora, studia, viaggia, mentre la stampa sempre più spesso le dedica attenzione. Poi nella sua vita entra Ferruccio Montesano, come lei medico e ricercatore, una promessa della psichiatria infantile, sarà l'unico grande amore della sua vita. Lei nasconde a tutti la sua storia d'amore con il collega, ma il suo vero segreto è un altro. Il 31 marzo del 98 Maria Montessori ha dato alla luce un bambino, Mario Montesano, che viene affidato a una famiglia e tenuto segreto, come racconta la storica Lucetta Scaraffia. poi la rottura con Montesano, che è una rottura con un mondo, con una cultura che è quella del positivismo italiano, è avvenuta, questo è molto femminile, per motivi d'amore, cioè per motivi squisitamente sentimentali, ma non tanto perché lei aveva avuto un figlio con Montesano che è stato tenuto segreto come figlio illegittimo. Allora, diciamo, questa era una cosa che poteva essere abbastanza normale. Lei pensava però che il suo rapporto con Montesano sarebbe continuato. Il figlio nascosto era anche una liberazione per lei, che poteva dedicarsi alla scienza. La rottura è venuta quando lei ha saputo che Montesano si sposava con una donna scelta da sua madre. E quindi questo è stato il tradimento, diciamo così, che Montesano, invece di essere un uomo progressista, è tornato al passato. Maria Montessori lascia il suo incarico alla clinica psichiatrica e si dedica all'insegnamento universitario, che però abbandonerà presto scegliendo la ricerca pura. Nel 1907 Maria Montessori apre la prima casa dei bambini a Roma, nel quartiere San Lorenzo, con 50 bambini tra 2 e 6 anni. E il successo del suo lavoro stupisce tutti. È nato il metodo Montessori. Il segreto sta nel preparare un ambiente che stimoli l'attività, un ambiente in cui il bambino è lasciato libero di scegliere il lavoro che meglio risponda ai suoi bisogni del momento. È un errore associare l'idea di disciplina al silenzio e all'immobilità. In questo ambiente tutti si muovono per compiere i loro esercizi, dal più piccolo di età al più grande, e senza disturbarsi. Nel 1913 decide che è venuto il momento di riprendere con sé il figlio Mario, che ormai ha 15 anni, ma a tutti continuerà a presentarlo come suo nipote, come racconta Valeria Babbini, storica della scienza. Nello stesso tempo però non lo tiene nascosto, lo sublima, cioè tutto il tema della maternità sociale, che è il centro della pedagogia montessoriana, tutto il tema delle donne che potranno scegliere il loro compagno, e anzi dovranno sceglierlo loro, un compagno degno dell'umanità futura, è un tema che riscatta, no, per le altre di domani quello che lei ha dovuto nascondere. In questi anni Maria Montessori lavora per diffondere il suo metodo. Ha intuito che il principio si può applicare non solo ai bambini, ma anche ai ragazzi di età più avanzata. Le richieste arrivano da tutto il mondo. La scienziata viaggia dappertutto per formare nuovi insegnanti, sempre accompagnata dal suo nipote Mario, come racconta la pedagogista Grazia Fresco. Lei ha cominciato a ricevere inviti da tutte le parti del mondo perché andasse a raccontare. Perché la cosa che ha colpito di più è stato il fatto di questi bambini piccoli che cominciavano a leggere e scrivere da soli. Cioè, a macchia d'olio si è diffusa in tutto il mondo questa cosa. E allora sono cominciate subito le imitazioni. Lei ha detto no, no, questo va fatto così perché io l'ho studiato così. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si trasferisce in Spagna per seguire l'avvio delle scuole aperte dalle sue allieve predilette. Ad accompagnarla il figlio Mario, che in Spagna si creerà la sua famiglia. In Italia intanto i contrasti con i colleghi, così come il suo rigore, bloccano la diffusione delle sue idee. E così, mentre i suoi libri vengono tradotti in decine di lingue nel suo paese d'origine, la nuova pedagogia della Montessori rischia di diventare un'opera incompiuta, ma lei, tenace e indomabile, non si rassegna. Nel 23 Mario Montesano scrive una lettera a Mussolini e gli chiede come mai proprio in Italia il metodo sia meno diffuso che in altri paesi. La risposta non si fa attendere e il duce si fa paladino dell'italianissimo metodo. Nel 26 Maria Montessori, che pure si dichiara estranea alla politica, riceve la tessera fascista come membro onorario del partito. 3 anni dopo nasce la Regia Scuola di Metodo per insegnanti. La cultura fascista diventa materia fondamentale. Ma nel 36, dopo vari alti e bassi, il rapporto tra la Montessori e Mussolini si interrompe, come raccontano la pedagogista Grazia Honegger Fresco e la storica Lucetta Scaraffia. Non si sono capiti, lui andava dritto per la sua strada e poi ha capito che c'erano Poi in questa scuola di metodo, che c'era troppa libertà tutto sommato, perché sì, la libera scelta, altro che il libro moschetto, lui voleva il libro moschetto e lei questa cosa del moschetto non gli andava per niente e il libro imposto nemmeno. Però poi Mussolini vuole controllare. A questo punto la Montessori si sente stretta in questo dove gli viene dato tutto, ma nello stesso tempo c'è un controllo molto forte. Però i dati parlano chiaro, nel 1933 si dimettono dall'opera sia Maria che Mario Montessori. Maria Montessori non tollera più le continue ingerenze del regime, alcune insegnanti infatti vengono accusate di antifascismo. Mussolini poi non ha gradito il discorso della Montessori su educazione e pace alla conferenza di Ginevra sulla pace. Un mondo nuovo per un uomo nuovo. Ecco la imperiosa necessità. Se questa affermazione fosse un'utopia, uno scherzo, sarebbe sacrilego parlarne mentre si vive sull'orlo di un abisso, nella minaccia di una catastrofe per l'umanità. Abrogarono l'insegnamento, cancellarono l'istituzione dell'Opera Nazionale Montessori. Lei fu costretta all'esilio. E certamente ha incontrato degli ostacoli, appunto, che sono derivati da questa sua, come dire, questa sua originalità, il pensiero originale di opera di Maria Montessori, che si incrocia naturalmente con le culture diverse, ma che non è direttamente collegata a questa o quella cultura dominante. Avete sentito Bobo Craxi? Nel 1933 i Montessori lasciano l'Italia per tornare in Spagna. Un anno dopo tutte le sue scuole ispirate al metodo vengono chiuse. Ma anche in Spagna la vita diventa improvvisamente difficile. Nel 1936, allo scoppio della guerra civile, il figlio Mario Montessori si arruola tra i repubblicani insieme a Nello Rosselli. Sua madre invece trova rifugio in Olanda. Solo un anno più tardi si ricongiungerà con suo figlio, ce ne parla la pedagogista Grazia Honegger Fresco. Chi li ha ospitati è stata una famiglia olandese, quella dei Pearson, la cui figlia Ada aveva fatto un corso con la Montessori nel 1934. E questa donna li ha aiutati, ecco, di nuovo erano senza soldi, senza niente, e loro, questo era un ricco banchiere di Amsterdam, e ha messo a disposizione una bellissima casa con un grande giardino, e naturalmente che ci fiamo con questa bella, ci facciamo la scuola. Nel 39 questo George Arundale, che era il presidente della Società Teosofica Indiana, va a trovarla e la invita ad andare in India a fare un corso. Quando nel 40 l'esercito nazista invade l'Olanda, Maria Montessori è in India e gli inglesi la considerano prigioniera italiana. Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me. E in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri. Maria Montessori resta lontana dall'Italia per 10 anni. Quando rientra è ormai una celebrità. L'ascoltiamo in un prezioso documento dell'Istituto Luce. Rimasi in Europa fino al 39. Poi dopo sono andata in India. E lì sono rimasta per 7 anni, dei quali per 5 anni fui internata come nemico italiano. Il 30 luglio del 46 è di nuovo in Olanda, ha ormai 76 anni, ma si rimette subito al lavoro e non smette di viaggiare, come testimonia questa sua intervista. Quanto tempo rimarrai in Italia? Io sono qui ospite del governo italiano per 2 mesi. Credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole e anche per applicare alla nuova educazione i miei principi. Adesso io andrò per qualche mese in India e dopo, se Dio vuole, tornerò in Europa. La mia madre stava seduta qui e guardava il mare. E io venni a raccontarle che avevamo ricevuto un invito dal Ghana. E lei era tutta entusiasta, dice sì sì, andiamo in Ghana. Abbiamo fatto tanto per i bambini in India e questi poveri bambini africani sono in peggiore condizione. E diceva, guarda che tu hai 81 anni e mezzo, credi proprio che ci vuoi andare? Dice, guarda, tu non mi ci vuoi portare, eh? Dice, guarda che uno di questi giorni vado via e tu non mi trovi più. Dice, beh, vai a prendere questo atlante per vedere dove è il Ghana. E io andai e quando tornai la trovai morta. Maria Montessori si spegne dopo una vita lunga e straordinaria. Scienziata geniale, ha creato una pedagogia rivoluzionaria che applica con metodica severità. Cittadina del mondo, resta profondamente italiana. Due candidature al Nobel della Pace ricordano la sua missione: educare le nuove generazioni a un mondo nuovo e senza conflitti. Io direi che le due voci dissonanti del Novecento nella storia del pensiero pedagogico del Novecento non nascono dentro le università italiane, ma sono legate a due nomi, Maria Montessori e Don Lorenzo Milani, che sono veramente due persone, due diremo oggi cani sciolti, al di fuori di ogni istituzione, al di fuori di ogni pensiero, che però hanno segnato in maniera precisa la storia dell'educazione e la storia della scuola in Italia. E Maria Montessori dice che la pace può essere di questo mondo se noi ricominciamo dai bambini e se noi pensiamo che a costruire l'uomo che domani può fare guerra o pace sono i bambini di oggi, con i quali noi dovremmo lavorare, dettando poi una serie di contenuti totalmente concreti su come questa pace vive nei piccoli gesti di un bambino dentro una casa di bambini. Questo è l'unico ma grande progresso che si chiede all'educazione: aiutare l'umanità a raggiungere il suo ideale. Questo è il contributo che le si chiede: essere al servizio della vita. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.